Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra! Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. E rieccoci qua. Buonasera a tutte e tutti. Ciao. Ben ritrovati e ben ritrovate alla nuova puntata delle porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat 1359 onde medie. Com'è bella la nostra sigla, la nostra pipipipipipipipi. Ci mancava un po' la cantinetta. Sì, ci mancava la cantinetta allagata, visto i recenti eventi in Toscana, in Mugello e nella Piana Fiorentina, come sempre. Non solo, a questo giro in realtà è andata un po' oltre, anche Firenze Sud, ha proprio allagato tutto. Quindi. Sì, è stata più democratica. Più democratica. E quindi un po' sotto il fango, un po' sotto l'acqua, tutto quello che è, però siamo emerse per raccontarvi di fantascienza e sogni oggi. Of course, intanto se volete scriverci, potete scriverci a postawombat@insiberia.net, mentre se volete scriverci in diretta, direttawombat.vado.li, per darvi giusto così, c'è. Se ci avete voglia. Esatto. Invece oggi parleremo di sogni, parleremo di fantascienza e sogni, un altro grandissimo argomento nel senso di ampio. Sì, non sentivo niente in cuffia, ma perché continuavo a girare la manopola sbagliata. Sì, chiaramente è un argomento vasto e, come dire, si potrebbe andare anche sul metaforico e spaziare, vederla come tutto un grande sogno, qualsiasi cosa. Noi siamo stati un po' più didascalici perché certo. Sennò non se ne veniva a capo. Venendo in qua, mi è venuta in mente una cosa, che tutti quei film, serie, fumetti e libri che parlano di roba di realtà virtuale, la realtà virtuale già conta come un sogno attivo oppure no? Questo è vero, in effetti, è un sogno lucido, no? Come si chiama? Sì. Un po', in effetti, potrebbe pure essere, anche se poi molto spesso, infatti, questi film giocano un po' sul confine, no? Che è tutto un po', non sai bene dove esatto. È la realtà, dove è il sogno. Beh, lo vedremo un po' quasi tutti le opere di cui vi parleremo un pochino giocano su questo fatto, non è una cosa, è abbastanza un cliché. E chiaramente con la tecnologia sì, c'è quello, e in effetti potremmo spaziare anche su Gibson, su alcuni capito. Sì, su alcuni momenti in cui si buttano nelle macchine e lì diventa una realtà strana in qualche modo onirica. Chissà, però noi forse non l'abbiamo, cioè non so te, ma io non ci ho messo niente di realtà virtuale. No, neanche io, volutamente. No, infatti. Mi è venuto in mente ora, venendo in qua, questa cosa, ho detto, però effettivamente, sì. Chissà, poi dipende un po' dalle macchine forse. Io in realtà una cosa similare ce l'ho messa in fondo, ma ne parleremo in fondo. Esatto, dai, non ve lo spoilero. Vedremo col tempo. Partiamo da lontanissimo. Cioè abbiamo deciso di partire da proprio far fare away. Sì, quasi l'albore della civiltà umana. Non è vero, però insomma partiamo dal 1600. Perché? Attenzione, c'è un racconto di fantascienza che abbiamo scovato, non noi, insomma era noto, però noi non lo sapevamo e ora sì, di Keplero. E io sono rimasta veramente colpita da questo fatto, devo dire, ammetto. Non lo sapevo minimamente che Keplero aveva scritto un racconto che effettivamente si può annoverare tra i racconti di fantascienza. Cioè, non so fra l'altro perché non viene praticamente mai citato, quando nelle storie della fantascienza c'è sempre un po', no? Tipo, qual è il primo racconto di fantascienza? Sì. Kepler, in effetti mi era sfuggito, non ce l'ho mai visto. Lui scrive questo racconto che si chiama Somnium, il sogno in italiano, ed è un breve racconto fantascientifico che è stato scritto appunto da Keplero nel 1609 in latino, lo scrive, e fondamentalmente aveva un po' degli eventi, lo verremo, aveva un intento divulgativo sostanzialmente, e viene pubblicato poi postumo nel 1634 dal figlio Ludovico. Il manoscritto però circolava già dal 1611, cioè ovviamente qui tutta la questione, quando si dice pubblichiamo nel 1600, insomma teniamo presente che la circolazione dei libri a stampa non era proprio così. Eravamo agli inizi. All'ordine del giorno, esatto. E cosa si dice in questo sogno? Keplero praticamente immagina di sognare, cioè anche qui si inizia con quello che poi troveremo in vari racconti, il sogno dentro il sogno. E quindi dentro questo racconto c'è un Keplero che immagina di sognare un giovinetto islandese, che di base è il suo alter ego, che con la madre strega, cioè sua madre è una strega, e apprende attraverso la madre di un'isola chiamata Levania, ovvero la luna. E, no, scusate, non lo apprende proprio dalla madre, ma da un demone. Cioè insieme lui e la madre, questo demone gli parla e gli racconta di questa isola che in realtà è la luna. E Keplero dichiara poi in realtà apertamente che questo, l'intento di questo racconto era di convincere i sostenitori della teoria geocentrica invece del sistema eliocentrico copernicano, cioè gli anni erano quelli, e lui intendeva appunto ambientare questo racconto sulla luna per spiegare un po' la teoria copernicana del sistema eliocentrico. E quindi cosa scrive in questo sogno? Questo alter ego di Keplero sogna di questa descrizione immaginaria di come la Terra potrebbe apparire vista dalla Luna. E di fatto, in qualche maniera, adesso, ad oggi, si considera un po' il primo trattato sull'astronomia lunare. Serio, non proprio perché lo sia davvero scientificamente, ma certo, perché insomma c'ha delle basi scientifiche e c'è un ragionamento, almeno questo in Occidente, poi chissà. Per esempio Carl Sagan e Isaac Asimov l'hanno citato come la prima opera di fantascienza, quindi non è proprio rimasto, non è sfuggito almeno a loro. E l'altra cosa interessante riguardo a questo racconto è che nel 1610, quindi un anno dopo in cui lui lo scrive, una bozza di questo racconto probabilmente pare che iniziò a circolare privatamente a Praga. Una copia venne rubata, una copia sempre, ricordiamoci, di manoscritto, venne rubata, e l'anno successivo finì nelle mani di persone che l'autore non conosceva e insomma in ogni caso avrebbe preferito che non lo leggessero. Fatto sta che a un certo punto, come andò, com'è, come non è, la madre di Keplero fu arrestata con l'accusa di stregoneria, e questo successe nel 1617, e il processo durò molti anni, durò 6 anni, e durante i quali Keplero ne assunse la difesa. Non sono riuscita a trovare informazioni su cosa ne è stato della madre di Keplero, sinceramente, chissà. Al tempo non era necessariamente detto che se veniva accusata di stregoneria, no, poi finiva male. Sicuramente in quei 6 anni del processo la madre di Keplero è stata sicuramente torturata, e sicuramente possiamo ipotizzare, ma penso di poterlo dire con certezza, è stata imprigionata in condizioni abbastanza estreme. Come poi è andata a finire, francamente, non lo so. Anche perché molto spesso questi processi non avevano, cioè non veniva semplicemente archiviato, non si sapeva come, cioè non c'è stato tramandato proprio. Nell'archivio c'era scritto che quella persona magari è stata processata, poi però non si sa come è andata a finire. No, è Keplero, ce lo voleva dire. Ma infatti, Dio, buono, vabbè. Fatto sta che, appunto, come dire, un racconto di fantascienza che probabilmente nella testa di Keplero era sì, sicuramente qualcosa di anche problematico, perché comunque stava sfidando anche delle la scienza dell'epoca e quindi di conseguenza la religione dell'epoca, quindi insomma sapeva di fare qualcosa di problematico, tant'è che probabilmente non avrebbe voluto che il suo manoscritto finisse nelle mani sbagliate. Penso che probabilmente dice assolta per insufficienza di prove. Oh, vedi. Oh. Perché infatti lui la difesa di Keplero fu tutta sull'inattendibilità dei testimoni messi contro sua madre. Che gli è andata bene che gli hanno creduto, perché normalmente sì. Questo non era un problema, ma vabbè. No. Sì, e quindi vabbè, meno male che almeno non è stata bruciata sul rogo in altri modi, però come dire, ci fa capire quanto la fantascienza può essere pericolosa per sé e per gli altri. Esatto. Perché alla fine, cioè, aveva scritto un racconto immaginario dove palesemente stava fantasticando, solo questo ha causato un processo per stregoneria alla madre. E vabbè, questo era. Tra l'altro non l'ho messo nella lista per rimanere collegati alla Chiesa. C'è il particolare modo di viaggiare nell'universo all'interno del mondo di Evangelisti e l'inquisitore Heimrich, che a un certo punto viaggia attraverso proprio i sogni. Certo, una volta potremmo fare una puntata dedicata a Heimrich. Sa, assolutamente, cioè, io grandissimo fan anch'io, io di Heimrich. Anch'io, cioè, che te lo dico a fa. Magari non tutta su Evangelisti, perché sennò finiamo domani mattina. Però anche solo su Heimrich, secondo me ci sta, tra l'altro mi farebbe piacere ripassare un po'. Sì. Tutte le varie storie, perché finisce veramente ovunque. Sì, sì, è vero. Protagonista. E quindi... da Keplero andiamo un po' avanti. Un altro che non potevamo citare, insomma, era forse ovvio. Il primo oggigiorno. Sì, in effetti, quello che ci dovrebbe venire in mente subito è Sandman di Neil Gaiman. Non ricordo se forse ne abbiamo già parlato sulla puntata, sì, vero? Sì, dedicata alla mitologia. E vabbè, ne riparliamo. Ne riparliamo in modo magari, no? Non ricordo in che termini ne parlammo. Ma infatti, qui entriamo proprio sul personaggio di Sandman, perché. Cioè, vabbè, ricapitoliamo per le profane e i profani. È una serie a fumetti scritta da Neil Gaiman, pubblicata dalla DC Comics tra l'88 e il 96, durata circa 10 anni. Questa serie, anche se poi lo vedremo, insomma, è stata ripresa ultimamente, è uscita una serie, non mi ricordo se su Netflix o dove, ma insomma non me lo ricordo neanche io. È stata ripresa abbastanza. Fatto sta, anche credo si sono uscite degli spin-off, dei vari filoni, ma diciamo che la serie centrale è durata questi una decina di anni. E, buffo è che Neil Gaiman non era mai stato particolarmente interessato ai fumetti, questo dichiarava, fino a metà degli anni Ottanta, ma a un certo punto gli capita tra le mani Swamp Thing, altro fumetto della DC Comics dell'84 di Alan Moore. Esatto. E evidentemente gli cambia un po' la prospettiva, casca dalla sedia e dice: oddio, ma è bellissimo, quindi possiamo fare dei fumetti di un certo tipo. Rimane molto colpito e inizia a scrivere a Moore, inizia a dialogare con Moore, tra l'altro entrambi inglesi, entrambi di formazione abbastanza libertaria, all'amore dichiaratamente libertario, anarchico. Neil Gaiman magari meno dichiaratamente, ma insomma è sempre stato di posizioni piuttosto libertarie, socialiste. E a un certo punto, insomma, iniziano un dialogo e all'amore gli risponde e lo sprona di fatto all'amore, gli dice: ma guarda, ma dai, ma prova, ma lanciati, prova anche te a scrivere fumetti. E quindi inizia Neil Gaiman, con questo appoggio, incoraggiamento da parte di Alan Moore, a scrivere il suo primo soggetto per un romanzo a fumetti. Quando parliamo di Sandman, fondamentalmente la trama è che questo protagonista che si chiama Sogno, per l'appunto, Dream, per essere proprio didascalici, che è un po' la personificazione antropomorfa dei sogni e di fatto è il signore del regno dei sogni. Esatto. Anche se poi la storia va avanti, viene scacciato dal suo regno in qualche maniera, viene detronizzato, c'ha mille peripezie, ma di fatto lui è il signore del regno dei sogni. Ed è una figura molto misteriosa, solitaria, vestita sempre di nero, viene chiamato anche Morfeo, più noto, almeno nella nostra cultura. E insomma, cioè, la questione è che anche questa cosa capita negli anni 80-90, quando il dark e il goth era al suo massimo splendore. Esatto. E chiaramente, insomma, non passa inosservata. E, tra i vari nomi, oltre Morfeo, sogno viene chiamato Neiros in greco, quindi, o anche il plasmatore, il principe delle storie ed altro ancora, perché in effetti in tutto Sandman c'è un po' questo stretto legame tra i sogni e le storie, i sogni e i racconti. Sì. Quindi quello che avviene in sogno è un po' un racconto, una fiaba, un mito, una serie di leggende anche che poi prendono corpo dopo anche nella realtà. E, sogno è uno dei sette eterni che incarnano e regolano un particolare aspetto dell'esistenza umana. Per esempio c'è morte, c'è disperazione, ci sono vari di questi eterni che sono di fatto degli dèi, potremmo chiamarli così. Morte, distruzione, disperazione, desiderio e delirio. Così, l'ha presa bene. Tutta esatto. Sì. Cioè direi che forse Morfeo è quello meglio, insomma, in fondo. E sono tutti con la lettera D. E sono scelti anche per vedi, capito? Non l'avevo notato. Cioè, dream, death, eccetera, eccetera. Disperation, extraction. Sì. E lui sì, Sandman è quello che regola i sogni fondamentalmente e nella mitologia greca Morfeo aveva il compito di vegliare sugli addormentati, nella mitologia invece germanica Sandman è l'uomo della sabbia ed è quello che fa sognare gli esseri umani cospargendo gli occhi di questa sabbia magica, quindi quando tu ti addormenti arriva Sandman, ti butta questa sabbia sugli occhi e tu lì inizi a sognare, entri in questo mondo di sogno. La cosa molto interessante al di là della trama, che è comunque affascinante perché Neil Gaiman è un grande scrittore, sì. Insomma non è che le sue narrative sono molto molto belle, ma al di là di quello è anche l'aspetto estetico, perché le copertine, io vi invito ad andare a sbirciarvi anche solo le edizioni originali. Ma in ogni caso le copertine sono state tutte realizzate da Dave McKean, che ha fatto questo strano lavoro dove c'è una sorta di collage tra disegno, fotografia, pittura, arte digitale. Sono quegli anni, se ne parlava anche quando raccontavamo delle fanzine cyberpunk, sono quegli anni in cui si inizia a sperimentare anche con tecnologie nuove, l'arte digitale, le fotocopie, i collage. E lui ha fatto questa cosa in maniera veramente deluxe. E quindi queste copertine, ma anche le, insomma, il resto, insomma, l'estetica di Sandman. Alan Moore l'ha ripresa poi, tra l'altro, questa cosa, sì, le sue opere più recenti, non solo. È vero, anche perché poi si è intrippato sul misticismo, esatto. E quindi sì, però è molto interessante perché c'ha queste, per certi versi, riprende anche alcuni classici dell'arte, per esempio Klimt riprende, certo. Molto, cioè è particolare, come non è come dire la classica copertina da fumetto, comunque la classica, no, estetica da lì, anche da lì moltissimo surrealisti, sì sì. E quindi niente, questo vi invitiamo a darci un'occhiata al di là della trama, che è molto interessante, poi in realtà anche quella è molto bella. È molto figo, il fumetto è veramente l'estetica. Molto bello, chiaramente la storia si approfondisce rispetto alla serie, ha molto più spazio, è una serie conclusa. Vero. Quindi molto bello, perché puoi sapere come va a finire la storia. Hanno ripubblicato da poco l'omnibus, bellissima, incredibile, tutto in uno, tirano il cofanetto, ma costa troppo. Lo so, per noi poveracci costa troppo. È quello il problema, rubatelo. Esatto, non facile, però, perché è comunque un po' corposo. Però è per una giacca molto pesante. Esatto. E poi fare il giochino di Benigni e sì, mettere esatto. Le allarmate a tutti. Ormai è vecchio quel film, non se lo ricorda più nessuno, forse. Se lo ricorda. Chissà. Comunque bellissimo, bellissimo, anche perché in realtà se poi si va a guardare gli Eterni sono rappresentati all'interno dell'opera come una sorta di famiglia disfunzionale. È vero. Si chiamano, insomma, sono fratelli o sorelle o qualcosa, perché poi appunto sono Eterni. E, lui è il fratello sfigato in qualche modo, sì. Ma in realtà è uno di cui hanno paura, nonostante sia sfigato, perché in realtà... Secondo la visione di Neil Gaiman, il sogno, chi veglia sui sogni, è un po' fondamentale, è un potere particolarmente potente. Anche perché te sei indifeso in quel momento, quindi... Esatto, sei indifeso, può metterti a dormire per sempre, per esempio. Tra l'altro. Oppure non farti dormire mai e quindi morire. Insomma, è interessante la potenza che dà appunto a colui che prende. Ma lì c'è tutto Neil Gaiman, in tutte le sue opere in realtà, c'è sempre questa... Poi lui ha scritto uno scrittore... ha scritto moltissimo per l'infanzia, l'adolescenza, diciamo, più che altro. e ha scritto con una cura estrema di queste famiglie disfunzionali, come dicevi tu, nel senso che sono famiglie dove di base c'è sempre sì. qualcosa di tremendo, sì. c'è qualcosa di che scricchiola, ma non è la classica tipo la figlia o il figlio un po' che so tenebroso, che a un certo punto se ne vuole andare di casa per ragioni X. No, no, lui proprio motiva bene, cioè violenza in famiglia oppure non lo so, di fatto sì, come sì. dire, c'è un bello specchio di realtà anche nelle cose, ma che... anche in American Gods, no? Esatto, cioè, certo. C'è, sì. c'è molta, cioè, c'è questa cosa qui. E Nessun Dove. Esatto, anche. Che bellissimo. Ci sono sempre un po' queste cose. Quindi sì, Neil Gaiman, non è un caso appunto che molte controculture di quegli anni si sono divorate le opere di Neil Gaiman, perché ci si rivedevano. E allora ti faccio partecipe di questo trip, che è un po' off topic, ma ci sta, nel senso che parlavamo appunto di Neil Gaiman che si avvicinò al fumetto grazie all'opera Swamp Thing di Alan Giusto. Moore. Swamp Thing, che non so se avete mai avuto modo di guardarlo, è questa bestia veramente grande, diciamo dalla mole un po' hulkesca, infatti è anche verde, però il concept è ben diverso, perché è questo personaggio, il protagonista, che muore no, vabbè, poi ci saranno vari riattamenti, però di base è questo protagonista che muore e la palude lo trasforma in un mostro vegetale. E però qual è il clou di Swamp Thing? È la vendetta, cioè, lui si deve vendicare di chi l'ha ucciso o di chi comunque gli ha portato rovina. E quindi ho pensato a Swamp Thing, però accidenti, ma c'è qualcosa di simile che però sembra essere un po' in stanza di Neil Gaiman, è il corvo. Certo, è vero. Nello stesso modo muore e torna dagli inferi per vendicarsi. Sì, è stato molto influenzato, si vede, dai. Assolutamente, e da entrambi però, perché poi in realtà il look, tutta quella roba lì, sono negli anni 90, stavo facendo sì. guardato, il corvo è del 96, sì, ci del sta. 94, ci sta, sì. Quindi assolutamente successivo, però c'ha questo senso di Neil Gaiman, un po' il corvo dentro di sé. Allora, mi sono fatto sto trip di... Assolutamente. Collegamento. Sì, sì, no, ma gli anni erano quelli, e tutto il mondo dark, goth di quegli anni lì, soprattutto del, come dire, dei posti anglosassoni, in Inghilterra in particolare, avevano tutto questo immaginario collettivo, cupo, ma al tempo stesso anche di rivalsa, cioè, sì. Siamo freak e ce ne vantiamo in qualche maniera, orgoglio, siamo orgogliosi di essere strani, ecco. Sì, sì, anche perché poi anche gli anni erano ancora... in Inghilterra, no? Soprattutto, no? La classe media, tutta impinguinata, casette a schiera, e poi gli altri dove li mettiamo, appunto? Subway, era strano, perché c'erano questo doppio, da un lato questo che dici te, e dall'altro lato c'erano gli operai, anch'essi, esatto. Però molto, come dire, cliché, cioè nel vero, senso vero. Di fatto... Tu se non eri, cioè se eri strano e non volevi andare a lavorare in fabbrica, per esempio, insomma, Ah no, molto male, molto male. Eh sì. Poi la regina cosa pensa di te? Ma veramente, piange sempre. Va bene, e quindi questo era un po' Sandman, la sabbia, tra l'altro, vabbè, banale, ma no, è la clessidra che sì. rappresenta il tempo che passa. Mentre te sei occupata a dormire. Mentre te stai dormendo, no, dorme, non si ferma, pesce. No, insomma, è una... Sì, esatto, dorme, non piglia pesce. Esatto. Allora, ci spostiamo invece fra sì. poco su un altro filone, mm-hmm. Che è un filone un po' più pazzerello, forse, un po' più... anche un po' più moderno, cioè più moderno, un po' sì. più simile alle cose che siamo abituati adesso a vedere. Esatto, allora pezzaccio dei Nightwish e poi torniamo subito a parlare dei sogni e fantascienza. Eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser per chi si fosse appena collegato. E stavamo parlando appunto di sogni e fantascienza. Sì, e ovviamente, probabilmente verrà venuto in mente anche a voi, dovevamo parlare di Inception di Nolan, di Christopher Nolan, film del 2010. E, si parlava fuori dai microfoni che io l'ho visto di recente, lo confesso. Bello. È andata così, perché mi ricordo che veramente al tempo ci fu un sacco di clamore. Io dicevo, ma fanculo, ho fatto un po' la snob, non l'ho voluto vedere. E adesso, bello, sì, si diceva, c'è roba più bella probabilmente. Però dai, godibile, interessante. No, no, comunque rientra fra, fra film notevoli da... Da ricordare. Anche perché sì, c'è una costruzione particolare, avvitata su se stessa, sogni dentro sogni dentro sogni, che sì, in un certo modo è un po', secondo me, come dire, un po' facile, un po', cioè, che vuoi vincere facile in qualche maniera. Però, cioè, perché è facile stupire le persone facendo questi colpi di scena che a un certo punto, oddio, ma allora sono in quell'altra realtà. Però fatto sta che effettivamente funziona ed è godibile. E, qui il protagonista è questo Dominic Cobb, detto Dom, che è un estrattore, ovvero un professionista che si occupa di estrarre segreti dalle menti delle persone mentre dormono, infiltrandosi nei loro sogni tramite uno speciale apparecchio che permette a un gruppo di partecipare a un sogno condiviso. Qui siamo in una realtà abbastanza simile a quella reale, cioè una fantascienza però non proiettata troppo sul futuro, nel senso, sì, effettivamente c'è una tecnologia che ad oggi non esiste, però più o meno l'ambientazione è quella di adesso. E c'è questo team, questo gruppo di lavoro che appunto si infiltra in qualche maniera nei sogni e partecipano al sogno delle persone e quindi hanno tutta una serie di problematiche, non si devono far sgamare per esempio e possono provare in qualche maniera a influenzare l'andamento del sogno e influenzando l'andamento di questo sogno in qualche maniera possono anche instillare in quella persona delle idee oppure rubare delle idee, quello segreti è sì, certo, sì, sì. Il classico. E insieme al suo socio Arthur, Dom cerca di entrare nella mente di questo Mr. Saito, che è un potente uomo d'affari giapponese. Qui ritorna il cliché un po' tipico della fantascienza del Giappone moderno. E per eseguire un'estrazione, appunto, quindi deve rubare da questo Mr. Saito un qualcosa, un segreto, ma in realtà gli deve anche inserire un'idea. E fallisce quando la proiezione onirica di Mal, ovvero la defunta moglie di Cobb, del protagonista, appare nel sogno interferendo con l'operazione. Perché sostanzialmente tu, quando entri nel sogno di qualcun altro, secondo Inception, però comunque sei te, quindi ti porti dietro ai tuoi stessi sogni, le tue stesse proiezioni, i tuoi stessi linguaggi dell'inconscio. E questo non, chi dorme lo vede. E quindi quando questi due sogni si incrociano è un casino, perché i due immaginari in qualche maniera iniziano a rivelarsi e quindi ti sgamano sostanzialmente. Esatto. Perché inserisci nel sogno delle persone che chi sta sognando non conosce magari, o che vede come strane, come presenze aliene, e quindi si mette in allarme. E poi ci sono alcune cose tipiche anche che avevamo visto anche in Matrix, e tipiche del cyberpunk e della fantascienza in generale, come per esempio i firewall, cioè anche i firewall del cervello, sì, no? Sì, sì, quindi sì. C'è chi sogna e subisce un'intrusione in qualche maniera nel proprio sogno, c'ha dei meccanismi di difesa, il tuo inconscio si difende in qualche maniera se si accorge che c'è degli intrusi. Mette in atto delle difese. Questo molto, davvero molto simile a Matrix, mi viene da dire. Però sì, interessante. E vabbè, soprattutto la questione è che si tratta di sogni avvitati. Lì si tratta di, quant'erano? 5-4 piani incrociati. Sì, riescono. Sì, a un certo punto devono andare sempre più in fondo, perché non riescono. Sogni dentro sogni dentro sogni dentro sogni. Perché se vai nel piano sotto si ferma il tempo sul piano sopra. E allora, se stai per morire sul piano sopra, cerchi di andare più in profondità per avere più tempo. Esatto. E i Griffin l'hanno rappresentato tra l'altro in modo incredibile in una puntata. Però vabbè. Bellissimo. Come riescono sempre a riassumere tutto? Sì, sì, in poche. Genialmente. Idiozie. E sì, e quindi è effettivamente affascinante. C'ha una costruzione avvitata molto interessante. Esteticamente c'ha delle trovate bellissime. Perché sì, insomma, sì. C'ha anche palate di quattrini per poter allestire. Super attoroni, per sì, carità. Dai, c'è cioè, tutto perfetto. E quindi, boh, alla fine, che gli dobbiamo dire? È venuto bene. Cioè, si guarda. Bene. Si guarda volentieri, ma come dicevamo, non Shutter Island, per esempio, ci è piaciuto molto di più. Sì. Come è molto più cupo, molto più disturbato. Sì, ma è molto più imprevedibile. Sì. Mi è risultato molto più imprevedibile. È vero, è vero, è vero. E continuando, sempre intorno a quegli anni, qui siamo un pelo prima, 2006. C'è questo cartone che vi consigliamo, che si chiama Paprika, Sognando, un sogno abbastanza famoso, nel senso che in quel periodo storico sono usciti, all'inizio del 2000, sono usciti degli anime veramente belli, e tra cui Paprika, quindi insomma, di Satoshi Kon, giapponese, però tratto dall'omonimo romanzo di Yasutaka Tsutsui. In un futuro non troppo lontano, un'invenzione nota come la DC Mini permette agli psicoanalisti di immergersi nei sogni e quindi nel subconscio dei propri pazienti, in modo da conoscere e curare stati alterati e problematiche nascoste dell'io. Perfetto, la perfezione, cioè finalmente smetti di doverti far raccontare dal tuo paziente cosa c'ha nel cervello, ma lo vedi da solo, quindi fa la diagnosi perfetta. Cosa succede? Che però il capo dell'equipe che lavora al progetto, la dottoressa Atsuko Chiba, inizia ad operare questa tecnica, questa DC Mini, illegalmente per aiutare i suoi pazienti al di fuori dei laboratori di ricerca, celandosi nel mondo dei sogni con il suo alter ego Paprika. E lì c'è questa cosa che ricorre, questa insomma tema che ricorre abbastanza quando si parla di fantascienza e sogni, ovvero questa capacità di infilarsi nei sogni altrui, e quindi a un certo punto inizia a abusarne, sicuramente. Esatto, e poi la presenza della psicanalisi, che serve come espediente narrativo, serve come analisi, serve perché c'entra con i sogni, oggettivamente non si può scaffare. Quindi in realtà io ti farei uno scalaggio, perché ci sta proprio bene parlare della falce nei cieli della mia amata Dolce Le Guin. Sì, ci va. Ci va perché è un libro particolare, sto leggendo ora in questo momento, tra l'altro, quindi fresco, non l'ho finito, ma... Cioè, tu vuoi dirmi che c'era un libro di Ursula Le Guin che non avevi letto? Sì, perché tra l'altro ho visto ora, ci ho messo un sacco a trovarlo perché non si trovava più. Per questo. Esatto, alla fine l'ho trovato, un'edizione North, mi sembra, ma una roba veramente bruttissima. Roba Edlan. Tremenda, però finalmente sono riuscito ad averlo, felicissimo, e ora ho visto che in realtà quest'anno esce, ho visto l'Oscar Mondadori sta ripubblicando tutta l'Ursula Le Guin. Maledetti. E ora allora, vabbè, chi se ne frega, è stato bello comunque, il viaggio è stato bello come l'arrivo, è molto interessante perché narra di il protagonista George Orr, che si accorge dopo poco, si accorge subito, fin dall'inizio del libro lo sappiamo perché lo dice, che secondo lui, quando lui sogna, i suoi sogni prendono realtà, cambiano il mondo. Cioè non prendono realtà, non è che tu sogni un leone e il giorno dopo c'hai un leone qua, ma tu sogni che c'è una montagna dove invece c'è una pianura, e il giorno dopo c'è la montagna e non c'è la pianura, e se c'erano delle case al posto di quella montagna, quella gente non è mai esistita. Il mondo si riscrive tutto per tutti, tranne che per il nostro protagonista. Oddio, come mi piacerebbe. Lui invece è terrorizzato. È terrorizzato di fare danni. E poi non ha il controllo, scusami. Perché non ha il controllo. Lui sogna e il sogno, dove va, crea certo delle cose. Lui si rende conto dopo un pochino che c'ha un doppio ricordo del mondo che lo circonda, e non capisce come mai non gli torni. Per cui va nei pazzi, si droga malissimo. Perché cerca di non sognare. È un futuro non troppo lontano, ma neanche troppo vicino, in cui c'è una mega sovrappopolazione mondiale, razionamenti, è ambientato in America, Portland. che è una città ultra ultra, come si dice, cementificata, per rimanere in tema, sì. Parla proprio di questi fiumi che li hanno tombati 4 volte, con 4 piani di cose, ognuno sopra e sotto, cioè il fiume, e sotto il fiume ci hanno fatto altre gallerie per farci passare le metro, insomma. No, molto bello, cioè, proprio nostra vita, la vita di tutti i giorni nostra. In questo mondo però futuristico, ma non troppo, per esempio le droghe sono regolamentate, anche quelle pesanti, le puoi prendere. Però te le dà lo Stato, uh-huh, attraverso la farmacia, puoi averne solo un tot, non puoi esagerare. Se ti beccano che esageri, che magari lo fai prendendo la tessera sanitaria ad un altro, e cosa succede chiaramente, ti acchiappano e ti dicono: bene, ora o ti fai un servizio volontario psichiatrico, lo chiamano così, comunque c'è la parola volontario nel mezzo, no? Quella cagata. TSV. Esatto. Se no, vai direttamente nel reparto psichiatrico e addio. Si sa non è più volontario. Una volta finisci lì dentro, chissà se esci. Okay. E quindi il nostro protagonista comunque accetta molto volentieri, perché in realtà sta cercando un aiuto, perché l'hanno recuperato per capelli da un'overdose, hanno visto che non l'ha avuta. Quindi la storia va avanti, perché appunto il nostro protagonista Orr a questo punto viene mandato dal dottor Haber, che è il diciamo questo medico che lavora per la sanità pubblica, dove tu vai per essere curato, che però ha una sua modalità nuova, innovativa, questo come si chiama? Aumentore lo chiama, questo casco che ti mette addosso, e attraverso l'ipnosi e questo casco qua riesce a farti dormire, a farti arrivare nella fase D, quella del sogno, e a muoverti il sogno. Ah, e quindi decide lui cosa sogna. Esatto, lui lo fa, perché almeno se ti faccio fare dei sogni piacevoli, capirai, perché pensa sia malato soltanto del fatto di incubi, sostanza, diciamo. Uh-huh. Allora vedrai che dormirai e quindi poi ti riprenderai. E ben presto, nella storia si va avanti, il protagonista comincia ad avere dei sospetti che questo medico si sia accorto che effettivamente i suoi sogni cambiano la realtà dei fatti, e ne stia un attimino approfittando. Per cui siamo arrivato nella storia, sono circa a metà libro, per cui va da una avvocatessa. Perché dice, secondo me lui mi sta usando, rivolgiamoci a un'avvocatessa. E da lì, insomma, una serie di peripezie, una dietro l'altra, e lui non sa cosa fare, perché non può fare a meno, perché se fa a meno di lui, non può fare a meno, A, legalmente, perché sennò lo butta dentro, B, anche, insomma, proprio psicologicamente ne ha bisogno, cioè lui ha bisogno di una mano, da solo non ce la può fare. E quindi è, insomma, interessante, lui sa che quell'altro sa... Bellissimo. Fico. E più che altro effettivamente il sogno guidato dal professore crea effettivamente dei danni veramente enormi sul mondo, che cambia. Solo per dirvene una, tanto domani ve ne scorderete, era una terra sovraffollata, a un certo punto questa terra non è più sovraffollata. E quindi il nostro protagonista, per esempio, torna a casa, apre il frigo e è pieno di cibo. Oddio. Perché prima c'erano i razionamenti, cioè, e ora troppo. Esatto. E quindi dice: ma aspetta, che sta succedendo? Insomma, molto figo. Beh, anche molto interessante questo fatto che venga considerato, dato per scontato, che il problema sia l'incubo, cioè sia il sogno brutto, e invece poi a un certo punto ci si rende conto che il sogno bello è il problema. Cioè, questo è vero, interessante. Vero. La nostra Ursula. Sì, tra l'altro invece, sempre parlando di psicanalisi, buttata lì, ci sarebbe pure gli androidi sognano pecore elettriche. Esatto, sempre sogni sono. Sì, Blade Runner, come lo volete chiamare voi, Do Androids Dream of Electric Sheep di Dick, di Philip K. Dick, su cui non ci soffermeremo perché già abbiamo fatto puntatona dedicata a Dick, però ecco, anche lì l'elemento dei sogni ricorrono tantissimo e si ritrova la fissazione di Dick per l'inconscio, per i sogni e per l'inconscio, sì. E lì è proprio elementare. E la domanda proprio didascalica: ma gli androidi sognano? E se sognano, sognano pecore elettriche? In realtà nasconde un po' l'archetipo, cioè il domandone della fantascienza, potremmo dire. Esatto, e che poi si ritrova in qualsiasi serie che abbia dei robot androidi o similari, sono umani fino in fondo, oppure no, non sono umani, ma hanno una loro integrità anche a livello di coscienza. Imitano gli umani, non imitano gli umani, hanno un mondo loro fatto di macchine, chissà, chissà. Esatto, esatto. Interessante. Molto interessante, la smetto, giuro. No, però, non la smetto. Di nuovo, l'Harley Quinn e il mondo della foresta, invece. Quindi interessante c'è che i sogni sono, per la popolazione indigena del libro, che ora vi dirò velocemente il plot, il sogno è parte integrante, anzi è una pratica da portare avanti fondamentale per comprendere la realtà. Perché il sogno non è finzione. Il sogno fa parte della realtà, è un'altra parte della realtà, e quindi riuscire, ci sono in questo popolo indigeno, tra l'altro popolo che ha una società matriarcale, dove le donne comandano, ma soprattutto cacciano, si occupano di far rimanere in vita tutti. Invece gli uomini tendenzialmente vivono nel, appunto, devono affinare questa abilità del sogno. Esatto, e loro passano il tempo con queste grandi tende, quindi sono un po' degli sciamani, diciamo. Che dicono poi, quindi le cape poi vanno magari ogni tanto dagli uomini, i capi, i sognatori, gli fanno: oh, ma dovremmo fare questo e questo, facciamo bene, facciamo male, ne discutono, e loro attraverso il sogno sono riusciti a capire meglio la realtà e quindi possono dare qualche idea. Interessante, perché sembra un po' il contrario della realtà, dove invece la donna era quella a cui si attribuivano i poteri di parlare con gli dèi, le varie le profetesse, vero, certo. Oracoli, cioè, i delfi, donna sempre. Assolutamente diverso. Questo è una popolazione di umanoidi con la pelliccia. Sono tipo gli Ewok del... No, gli Ewok, gli orsetti di Star Wars, quelli Che belli, mi piacciono. Sì, fantastici. Sono un po' similari a quelli. Però la storia poi è molto interessante, perché te lo racconta da due punti di vista: dal punto di vista di loro e dal punto di vista invece degli umani, che sono andati lì a colonizzare per tagliare legno. Solo che questi poracci vivono nei boschi, vivono, le città sono costruite appunto nella foresta. E l'uomo arriva e trancia tutto. Strano. Li prende e li schiavizza. E quindi poi è tutta una storia di rivalsa, però gente che riesce a vivere e comprendere il mondo sia dal punto di vista della percezione da sveglio, che quella invece del subconscio, che comunque fa parte della realtà, hanno una visione del mondo differente e quindi anche di reazione differente. Quindi nel momento in cui tu prendi la violenza, prendi la via della violenza, questo ti trasforma in qualcosa. Cioè la violenza ti trasforma e può essere la soluzione, ma bisogna mettere in conto che ci sarà una trasformazione. Molto interessante anche questo. Molto, molto interessante. Devo dire, veloce, piccino. Maledetta, ma perché non ne sbagliava uno? No, io finora non ne ho trovato uno sbagliato, per quanto mi riguarda. Però anche qui, quindi, il sogno è qualcosa che fa parte in realtà proprio della realtà e lo compenetra, e appunto le sue maglie si mescolano alla realtà. E stupidi umani che non riuscite a capire veramente. Insomma, poi c'è dal punto di vista, il racconto, la descrizione di umani dal loro punto di vista, e fa molto ridere, perché veramente sono ottusi. Sì, molto ottusi. Porini. Purtroppo hanno le armi da fuoco, le astronavi. È sempre così, Cioè, sono palesemente gli esseri umani, sono troppo più grezzi. Però. Esatto. Allora, c'era un... Prima mi sono un attimino perplesso, perché avevo scritto Necropolis Delano, che non mi ricordavo cosa fosse. È un fumetto. Delano è il... In realtà lo conosci, Hellblazer, cioè... Giusto. Constantine. Serie della DC, famosissima, sì. Fighissima. Anche questo è molto simile come graffiata e come stile a Sandman. Sì, a Sandman, sì, comunque sì. Sia a Neil Gaiman che, insomma, in qualche modo a Alan Moore. La cosa interessante qui è un'altra, cioè il popolo vive come in un sonnambulismo all'interno di questa città che chiama Necropolis, che è fra... che è un mix di... come città dei morti, però no, c'era un'altra descrizione, non mi ricordo. Comunque, volevo dire questo. L'etimologia è appunto narco. E quindi necropoli, cioè la città dei morti, però qui si ricerca l'etimologia narcopolis, diciamo. quindi è, scusa, forse no, infatti si intitola Narcopolis, certo. Ah, ecco. Narcopolis è una città-stato i cui cittadini esistono in una sorta di inebriazione sonnambulistica, intorpidita intellettualmente, inoculata contro l'empatia, con un modo cioè praticamente la popolazione è drogata. Continuamente vive in questo stato di sonnambulismo, di torpore fisso. Questa città stato chiusa, e questo fumetto autoconclusivo parla proprio di questo. Madonna. Di che anni questo, te lo ricordi? Più o meno. Ho messo in crisi. No, decenni. 2008, 2000. Inizio 2000, diciamo. Sì. L'ho messa, non vabbè. Insomma, però sì, è abbastanza recente come cosa. Interessante, non c'è in italiano però. L'ho cercato, ma non c'è in italiano. C'è solo in inglese, però. Ah, vabbè. Per chi riesce a trovarne una copia, sicuramente una scan da qualche parte si trova. Interessante. Molto bello. E che dici? Facciamo un'altra pausa musicale e poi proseguiamo con l'ultima parte. Un po' abbiamo ancora qualche perla da lanciare. Sì. Assolutamente. Non vi addormentate. Non vi addormentate, mi raccomando. Anzi, aprite i vostri occhi. Open your eyes. E eccoci qua nella nostra cantina allagata delle porte di Tannhäuser, serve un'idrovora. Serve un'idrovora, chiamate qualcuno. No, no, noi non abbiamo problemi, siamo in alto in questo momento, ma andiamo in profondità all'interno dei sogni. Bravo, così si dice. Esatto. Di cosa stiamo parlando? Abbiamo parlato di Necropolis in chiusura. Volevo parlare invece di Wild Cards. Wild Cards è una serie di racconti e romanzi di fantascienza e supereroi ambientati in un universo condiviso. Mai sentiti proprio, zero. La serie è stata creata... no, ma sai, sono quei mondi lì dei Marvel, che sì, noi, io non sono un appassionato. Io devo dire... E quindi mi perdo... No, io tanto. Anch'io, però i supereroi c'ho comunque un debole. Però c'hai un debole. Sì, ammetto. Guarda, veramente la merda riesco a vedere. Però non così, cioè non sono così infissa da andare a cercare. Cioè guardo quelli più noti, Batman. Cioè non è che guardo quelli di... Allora, poi da quando hanno scoperto che fare film perché poi ho scoperto, no? Ci domandiamo noi sempre perché continuano a sfornare film soprattutto di supereroi, no? In effetti magari di ti fanno lo spin-off dello spin-off dello spin-off dello spin-off. Ho scoperto che praticamente per poter tenere i diritti di una certa opera, questo vale anche per la Disney per esempio, devi continuare a sfruttare, devi fare cose, quindi a un certo punto anche se è in perdita tu lo fai lo stesso, sennò il perdi film diritti. Perché sennò perdi i diritti di quello e poi davvero ti porta i soldi. Boia. Ecco perché arriva tutta sta merda. Tutti questi soldi che avete, ma perché non li usate meglio? Perché non fate roba bella e basta? Ecco, è spiegato, è questo. Anche tutti i revival, il 2, lo spin-off. Spesso e volentieri è dato da questo, poi altre volte no. Però cioè, hai aperto un mondo, secondo me. Incredibile, incredibile. Vabbè. Comunque, la Wild Cards, la serie è stata creata da un gruppo di scrittori di fantascienza del Nuovo Messico. Quindi sono americani, però insomma un po' messichelli. guidata, che comunque i messicani hanno una loro mitologia, una loro... insomma, di scrittore, cioè il modo di scrivere interessante, hanno tanto sì, da dire. Il realismo magico, tutta una serie di cose. Cioè, hanno veramente tanto da dire. Comunque, guidata e curata da niente poco di meno che J.R.R. Martin. Quindi c'è di mezzo il. Non insultiamolo, poverino. È sempre da insultarlo. Con l'assistenza di Melinda Snodgrass, entrambi anche contributori della serie. La serie iniziale di 12 volumi è stata pubblicata dalla Bantam Books tra l'87 e il 93, prima di passare alla Bain, che ne ha pubblicato altri 3 volumi tra il 93 e il 95. E quindi passata alla iBook, che ha pubblicato 2 nuovi volumi. Insomma, questo per dire che ha avuto questo universo condiviso, poi passa di mano in mano e viene aggiunta sempre più cose. La maggior parte... No, va bene. La serie è ambientata in un'ucronia. Poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, come spesso accade in queste rivisitazioni di supereroi, nel 1946 un virus alieno che riscrive il DNA viene rilasciato nei cieli sopra New York. Il 90% delle persone che vengono in contatto con esso vengono uccise, ognuna da una mutazione diversa. Che vuol dire estrarre la regina nera, Wild Cards, carte. La regina nera all'interno delle carte è morte sicura. Ecco. Il 9% invece viene deformato e quindi vuol dire che ha estratto un Joker, un Jolly per noi. Mentre il rimanente 1% ottiene poteri superumani e quindi ha tirato fuori l'Ace, cioè l'asso. Quindi il mondo poi a questo punto si divide un pochino in caste legate all'estrazione che hai fatto, tra virgolette, Madonna, nel mazzo di carte. Persone che ottengono superpoteri inutili o ridicoli, come poter far crescere i peli corporei o cambiare il colore della pelle. Roba che sì, va bene, però non è che ci salvi il mondo. Oddio, in alcuni casi cambia il colore della pelle se sei una persona razzializzata. Sì. Ahimè sì. questi vengono definiti due. Il virus portato dalle correnti d'aria si sparge in tutto il mondo influenzando decine di migliaia di persone, i cosiddetti NAT, cioè gli infettati. Comunque la cosa ganza è che il nostro gruppo di supereroi, cioè questi wild cards, queste carte selvagge, insomma, hanno tutti dei poteri particolari. Ora non sto a raccontarvi tutto wild cards, cioè se vi è venuta la curiosità andatevelo a cercare, che può sicuramente essere interessante. C'è un protagonista che praticamente è uno dei più forti, perché quando si addormenta ottiene un potere, se poi si riaddormenta ne ottiene uno nuovo e perde quello prima. Così. Esatto, e gli possono uscire dei poteri fuori controllo, fortissimi. Ah, cioè quindi non è detto ti vada bene. E quindi lui cerca di non dormire perché non vuole perdere questi poteri, quindi si droga malissimo. Ecco, un altro. Che la ridaglia sempre. Però ganza questa cosa che quando si addormenta, poi si risveglia, c'ha un potere diverso. E quindi, bello però. E quindi è tutto pazzerello perché chiaramente non cercando di non dormire non puoi uscirne sano, ecco. Quindi c'è l'occhiaia. Esatto. E si torna al dark. E si torna, esattamente, che poi è quello, vivere la notte. Senti, esatto. Tocca. Quindi, insomma, carina questa cosa, l'ho trovata molto divertente. Io, appunto, non sono amante di questi mondi enormi, però fico, molto fico. Bello. Ci spostiamo invece a un altro fumetto da me tanto amato, invece questo leggo molto volentieri, che è Dylan Dog. Classico Dylan Dog, soprattutto come i fautori sanno che i primi 150 numeri sono meravigliosi, poi dopo si riscende, poi ora c'è la nuova epoca, a un certo punto Dylan Dog ha il cellulare, cosa che prima oddio io questo non lo sapevo. Ora siamo arrivati che non c'è più la gente block, purtroppo abbiamo perso, dai, pure lui si è fatto il cellulare e lo smartphone, anche però c'ha un rapporto tremendo, però ma meno male viene costretto a un certo punto ad avere lo smartphone, no, nemmeno un cellulare, come smartphone. Mi ci rivedo. Viene costretto da varie, è cambiato, appunto, non c'è più l'ispettore Block, ma c'è un nuovo ispettore che invece ce l'ha a morte con lui. Perché, che fine ha fatto quell'altro? È andato in pensione. Ah, vabbè. Semplicemente è andato in pensione. Vabbè. Ricompare ciclicamente. Ora io non lo sto leggendo più come leggevo prima, però insomma ricompare ciclicamente. Invece questo nuovo capo investigatore non lo sopporta. E c'ha questa assistente musulmana con cui invece Dylan Dog riesce a trovare un certo feeling di investigazione, cioè lei insomma non lo sopporta, però porta risultati lui, quindi a un certo punto capisce che lui non lo sopporta nessuno. Non lo sopporta di base nessuno. Okay. E però insomma capisce, a volte solo lui può risolvere certe questioni, e quindi Dylan Dog spesso ha parlato dei sogni, c'è, se volete, una raccolta dedicata proprio ai sogni, che si chiama Sogni, guarda un po', che contiene queste tre opere, che è La casa degli uomini perduti, Sette anime dannate e Sogni. Parla solo di sogni, ve ne racconto uno molto carino, che è La casa degli uomini perduti, che è molto interessante perché c'è un ribaltamento un po' alla Dylan Dog del mondo, cioè Dylan Dog che va a investigare in questa casa stregata, considerata stregata da questo villaggio dove va lui, perché un suo carissimo amico, che è uno che appunto va a fare le ricerche del paranormale e a verificare se sono vere, quindi un po' l'uomo di spettacolo, un po' non è, insomma, non un ciarlatano come lui, perché lui invece va a svelare i trucchi se ci sono, però scompare. Dopo che è andato a vedere sta casa, che si dice essere stregata, scompare, quindi Dylan Dog va a... deve indagare. Va a indagare e a cercare. Questa casa effettivamente ti fa impazzire, cioè anche lui dopo poco perde un po' il senno all'interno di questa casa. Qua Lovecraft. Sì, un po' alla Shining. Anche, certo. La casa che ti fa impazzire. Perché ci sono le presenze, ma chi sono queste presenze? Non è che si vede, non ci sono dei fantasmi, non ci sono, non accadono, cioè, però tutti questi scricchioli, questo, e senti la presenza ma non vedi niente, non vedi, quindi non c'è paura, esci di brocca. E quindi lui, e poi nel mentre deve andare a prendere da mangiare, quindi nel villaggio antistante ha a che fare con la popolazione che non vuole, quando sente parlare lui abita in quella casa, va via, scappa, non ci può parlare. Cioè, comunque insomma, sembra il racconto tipo di un condominio dove i vicini sono insopportabili. Sì, sì, sì, sì, sì. Poi vedrai, avrà preso da quello, cioè avrà avuto dei vicini pessimi come noi. Sì. Entrambi abbiamo delle difficoltà da questo punto di vista. Metal. E La cosa interessante è che, insomma, ve lo racconto, cioè che alla fine si capisce che non è la casa ad essere stregata. Ah. Ma è il villaggio ad essere stregato. Oh, mamma. E la casa in realtà è l'unica protezione da quello che c'è fuori. E quindi Lian Dog in realtà impazzisce perché è tirato verso il fuori dal villaggio stregato. Ah. E la casa che lo tiene per difenderlo, e quindi impazzisce in questo tira e molla. Però quando riesce a capire che in realtà sono loro, che bello, risolve poi tutta la questione. Quindi la casa brutta e cattiva in realtà era l'unico barlume di... Non siamo noi che siamo pazzi, siete voi che siete dei pazzi. Capito? Bello. Ganzo, l'ho trovato colpo di scena veramente divertente. Molto bello. Mi è piaciuto. E gli altri non me li ricordo. Vabbè. Andare a ricercare la trama, dovrei riguardarlo. Sicuramente Sogni è una specie di thriller dove Dylan Dog viene invitato in questa casa. È come si chiama quello lì? C'è il film che viene invitato per una cena e c'è il delitto. Cena con delitto si chiama. 2000, penso. Sì, è famosissimo. E all'inizio c'è questo vaso che casca. Ora non mi viene neanche a me. Comunque, cena con delitto. È una specie di cena con delitto in questa casa dove fondamentalmente il maggiordomo e tutte le servienti sono dei burattini. Oddio, è paura. No. E ci sono questi personaggi strani, oltre a lui, tra cui tipo c'è una citazione Monty Python dove c'è quell'uomo enorme. Sì, del senso della vita. Esatto, brava. E che mangia la mentina. Mangia la mentina ed esplode. E succede il delirio. Bellissimo, bellissimo. Quindi, insomma, vi suggerisco Dylan Dog, La raccolta dei sogni, oppure andatevi a cercare La casa degli uomini perduti, Sette anime dannate e Sogni. Molto bello. E, ok, abbiamo solo due altre segnalazioni da farvi riguardo ai sogni e la fantascienza. Di cui la prima è Moon Knight, di cui io non so veramente niente, perché a un certo punto penso di averla intravista anche quella una serie, giusto? È uscita la serie. È uscita la serie, ben fatta, devo dirti. Se poi hai voglia di guardarlo, guardalo, perché quella è ben fatta. A me mi aveva un po' scoraggiato, sì, non so. Anche detto, a me. Anche a me. Sembra una cazzata. Prime due puntate, ma in realtà poi era riguardata valida. Va bene, va bene. Te la consiglio. Marvel. Marvel, sì. Marvel. Universo Marvel. Sì, sì. Sì. Sì, so, c'è scritto sulla scaletta, sì, io mi fido. È vero, è Marvel. Moon Knight, il vero nome è Mark Spector, è il personaggio che interpreta questo personaggio. Creato da Doug Monek e Don Perlin, testi e disegni rispettivamente, fumetto che appare all'inizio degli anni 70, 1975. Tra l'altro in Italia arriverà col titolo di Lunar invece Moon Knight. Ma pensa, io pensavo fosse molto di dopo, invece... Invece, è un personaggio che c'è da tanto, però ora ha trovato auge, chiaramente, grazie alle serie che è uscita. Uh-huh. Vabbè, non sto a farvela lunga, però Moon Knight è questo... nell'ambientazione mitologica egiziana, antico Egitto. Quindi i cattivi e i buoni... O anzi, molto grigia la questione, quindi cattivi e buoni, sa quali sono, è tutto nel mondo egizio. E il nostro protagonista viene fondamentalmente scelto come cavaliere di uno di questi dei, cioè il dio della luna egizio Khonshu, che è questo dio che è una sorta di scheletro di avvoltoio, una roba del genere. Mm-hmm. Fichissimo. E gli dà questi poteri per combattere il male o quello che... Perché Khonshu è un po' caotico, malvagio, cioè non è che è buono, però non è neanche cattivo. C'è chi è più cattivo di lui, insomma, e quindi... però, volente o nolente, lui è stato scelto e lui è Moon Knight. La questione è che quando Spector si trasforma in Moon Knight, cioè quando dorme, si trasforma in Moon Knight e... Moon Knight fa il delirio, poi si risveglia il nostro Spector e non si ricorda assolutamente di niente, di cosa sia successo. Per cui la sua vita è una tragedia totale, perché poi arriva al lavoro stanchissimo. No, il post sbronza. Esatto, perché lui in realtà non dorme mai, perché quando si trasforma in Moon Knight va a fare... E quindi però anche, per esempio, che a un certo punto è lì a combattere, nel mezzo a un combattimento, bam bam bam bam, sta facendo il culo a tutti e poi boom, si sveglia. No. E torna Spector e fa ok, scusate, un delirio. E come fa? Si deve riaddormentare? Si deve riaddormentare o imparare a ci vorrebbe la narcolessia. Sì, perché poi è un po' narcolettico. Poi la cosa non finisce qua, perché in realtà la psiche di questo Spector poi si frantuma ulteriormente. Quindi non ci sarà solo un Moon Knight, ma ci saranno varie tipologie di Moon Knight nella sua mente. Quindi è tutta una roba molto psicologica. Bello. Con questo personaggio è uno sfigato di base, poveraccio, gli va tutto male. Però nel mentre deve salvare il mondo. E certo. Allora... e però dormire anche nel frattempo. Esatto. Molto divertente. La serie, devo dire, regge abbastanza. È un personaggio valido, tutto sommato valido, perché è molto ironico. Allora, è un po'... Infatti lo si è visto a volte con Spider-Man, con questi personaggi un po' più ironici. Sì, dai. Meno che si piglia tipo Superman. Sì. Chi lo sopporta? Sì, no, c'è chiaro. Chi lo sopporta, ma io no. No, neanch'io, c'ho quel ricciolino. Esatto. E invece arriviamo in conclusione al nostro amato Cronenberg, perché... Ecco, qui siamo forse in conclusione con ci allacciamo al discorso che facevamo all'inizio, ovvero di quella fantascienza che non parla. Qui è fantascienza in effetti. Sì, però, sì, senza dubbio. Che comunque non parla espressamente di sogni, nel senso che non è proprio ok, dormi e fai un sogno, ma quella realtà virtuale, quei mondi mediati dalla tecnologia, cioè diciamo che ci sono dei supporti tecnologici che ti fanno entrare in una realtà parallela, dove però le realtà si mescolano, si mescolano i piani, è difficile capire dove inizia il sogno, dove inizia la veglia. E qui chiaramente Cronenberg ne fa una questione di insomma, la tematica classica del cyberpunk, il non saper distinguere la macchina dall'umano, dalla carne, quindi la realtà dalla realtà tecnologica. E la trama è abbastanza buffa, nel senso che si parla existence, non l'abbiamo detto, forse non l'abbiamo mai detto, mi sa che non abbiamo detto la parola existence. Oops. Existence il film di cui vi stavamo parlando da 6 ore. Sì, Existence di Cronenberg, che la trama è abbastanza semplice, nel senso che di base sì, cioè semplice almeno l'inizio, perché è una grande star, questa realtà anche lì un po' strana, un futuro ma non troppo, abbastanza simile ai giorni nostri, e c'è questa creatrice di videogiochi che è però una star, cioè è un mondo in cui i creatori e le creatrici di videogiochi sono veramente delle star, delle dive. E quindi lei ha creato questo mondo immaginario, questo videogioco ambientato in questa realtà, potremmo chiamarla virtuale, a cui si accede attraverso un dispositivo che qui pieno Cronenberg, è un dispositivo biomeccanico. Esatto, non stiamo parlando di tecnologia, ma di biotecnologia. Sì, è un aggeggio orrendo, bianco, rosino. Sì, rosino. Come fa Cronenberg, in stile Cronenberg, sembra un organo interno, sembra un organo tipo interno, brava. Un polmone. Esattamente. E buttato lì, però è la macchina, quindi c'è tutta questa immaginario tipicamente cyberpunk di questi organi interni che escono fuori, roba orrenda. Tremendo. E quindi tu ti connetti a questo coso attraverso una porta che ti sei installato sulla nuca. Sì. No, scusami, sì. O sul fondo schiena, non mi ricordo più. Forse era proprio lì dove c'è. Non mi ricordo. Mi metti il dubbio, ero sicuro che fosse dietro, però ce n'è talmente tanti e ce l'hanno lì sì, dietro la porta. Era sulla schiena invece. Forse era sulla schiena. Comunque fatto sta che ti infilano questo cordone ombelicale che ti collega, che è un cavo, ma di fatto ha proprio le sembianze di un cordone ombelicale, che appunto da questa tua porta ti collega a questo aggeggio, questo polmone, questo schifo. Qui che ti proietta in questa, dove dentro c'è caricato questo videogioco, e tu attraverso questo entri in questa realtà virtuale e giochi. Di fatto sei proiettato in questo mondo immaginario. Tra l'altro è interessante che questi pod biomeccanici siano diventati famosi perché sono sostenibili, rispetto ai chip invece classici che non sono più sostenibili. È vero. A livello di costruzione. È vero. E tra l'altro ci sono altri di questi riferimenti molto interessanti, organici, dentro Existence, che secondo me è un film bellissimo, va visto tantissimo. Sì, per forza. È stupendo. E c'è tra l'altro, per esempio, a un certo punto una pistola fatta di ossa, che riescono a imboscarsi in una pistola che altrimenti suonerebbe al metal detector, perché è fatta interamente di materiale organico, di denti, di ossa. I proiettili sono denti. Cioè, è una scena tremenda, cioè, perché loro vanno al ristorante, ordinano questo piatto speciale, gli è stato detto di chiedere. E arriva queste portate, sono delle portate normali, sì, di questi pollo, roba similare, sì, diciamo. Sì. E loro mentre mangiano poi trovano dei pezzi e automaticamente, per tutta una questione di trama, riescono ad assemblare dai pezzi di ossa avanzate dal cibo e mangiano questa pistola. Una pistola. Pazzesco. Sì, e tutto ruota intorno a questa Monica Geller, che è questa, appunto, questa creatrice, che è un po' l'architetta, cioè è la dea, nel senso che è quella che ha creato un mondo. E c'è un gruppo radicale che vuole abbattere questa Allegra Geller. Scusa, è vero, Moni, perché Monica? Da Friends. Monica Geller. Oddio! Oddio! Madonna. Vabbè. No. Non erano manco gli stessi anni. Vabbè. Allegra Geller. E Allegra Geller, a un certo punto, c'è questo gruppo, appunto, radicale, che tecnofobico, diciamo, potremmo chiamarlo così, sì, che sì, vuole sì. Uccidere Allegra Geller, perché simboleggia in qualche maniera, appunto, il decadimento della civiltà umana, e perché, appunto, trovo ipertecnologica, sono una setta sostanzialmente questi, e sì, sì, sì. La vogliono uccidere, e quindi lì la trama si tinge un po' di noir, nel senso che da un lato ci sono questa Allegra Geller e il bodyguard, di fatto, cioè quello che la deve, sì, in qualche maniera proteggere, che è Jude Law, pazzesco, un giovanissimo Jude Law, sì, e che la deve proteggere, quindi si immergono in questa realtà virtuale per scappare, in teoria, dai loro persecutori, anche se poi lì si iniziano a mischiare i piani e quindi non capisci mai, perché tutto ciò. Poi c'è la questione del virus, no? Viene iniettato un virus, quindi oddio, questo pod nel viene pod, infettato, esatto, pod infettato, esatto, perché la versione era una versione beta, in qualche maniera sperimentale, sì, ancora non lanciato, esatto. E quindi è molto interessante, perché questo mondo onirico in cui ci sono questi cioè loro di fatto si addormentano quando di fatto entrano. Si addormentano, e di fatto ci sono più piani, cioè all'interno del gioco loro cioè si infilano il pod anche all'interno del gioco, quindi è un po' all'Inception da questo punto di è vista. È vero, sì. E poi ci sono questi personaggi ricorrenti, molto bello il fatto che a un certo punto, come nei videogiochi quelli vecchi, ci sono questi personaggi un po' comparse che ti dicono una frase e poi loopano, perché hanno finito il loro ruolo, e quindi iniziano a loopare, tipo che scuotono la testa, e tu li guardi e dici, oddio, ma... Ah, quindi siamo nel videogioco, perché non è una persona come le altre. E quindi sì, è molto buffo anche il modo in cui loro si rendono conto di essere dentro il videogioco sogno. Sì, sì, esatto. Cioè di non essere riusciti a uscirne. Esatto, erano convinti, ma invece no. E poi sì, vabbè, ci sono tutte quelle cose alla Cronenberg tipiche. Questo è proprio un film tipicamente di Cronenberg, dove ci sono questi medici, chirurghi improbabili che fanno queste operazioni alla carne, alle macchine, questa porta impiantata appunto nella colonna vertebrale al volo e in maniera sporca. È tutto un po' questa tecnologia sempre tutt'altro che asettica, molto sporca, tipicamente di Cronenberg. Sì, è tipica sua, sì, è vero. È vero, e si vede. Tra l'altro sto giocando a un videogioco ora che c'ha proprio quella ambientazione lì. Mamma mia. Un po' sudicio, un po' ste ossa dappertutto. Ma infatti è un film tragico. Quello vi ho raccontato, Outriders, ve l'ho raccontato un paio di volte. Bello però. Sì. Quindi niente, questo era un po' il nostro immaginario riguardo ai sogni mischiati con la fantascienza e il mondo fantastico. Non so, mi sa che siamo in chiusura, non abbiamo altri... No, ahimè non abbiamo altro, però se vi venisse in mente scriveteci a postawombat@insiberia.net. Però direi che insomma una carrellatina l'abbiamo fatta. Voglio dire... Sì, quindi niente, vi diamo appuntamento tra 2 settimane, sempre alle porte di Tannhäuser su Radio Wombat, e